Storie italiane. Il serpente bianco. Tanto tempo fa, in un castello, viveva un nobile re, amato da tutto il popolo. Il suo carisma e la sua tenacia erano d'esempio. Il sovrano sapeva sempre ogni cosa di ciò che accadeva nel suo regno. Alla fine del pasto, il re voleva che un servo fidato gli portasse una pietanza coperta. Un giorno, il servo fu particolarmente curioso di conoscere la pietanza segreta. Aprì il vassoio e scoprì che si trattava di un serpente bianco. Così prese un pezzo e lo mangiò. Appena mangiò un pezzo del serpente, si accorse di poter udire i discorsi degli animali. Un giorno la regina smarrì uno dei suoi anelli più preziosi. Il servo si recò nel giardino, prese l'anatra che inghiottì l'anello, prese con sé l'oggetto prezioso e lo consegnò ai reali, così che egli ricevette una ricompensa. Vostra maestà, tutto ciò che desidero è un cavallo e dei soldi per il viaggio. Voglio viaggiare e scoprire il mondo, sua maestà. Ora che aveva il potere di capire gli animali, il servo partì per il suo lungo viaggio. Vicino alla foresta, incontrò tre pesci indifesi incastrati tra le alghe. Ah, siamo molto sfortunati! Moriremo se nessuno ci salverà! Il servo, dall'animo gentile, prese i pesci e li liberò. Ci ricorderemo di te! Una buona azione ne merita un'altra! Il servo continuò il suo cammino lungo il sentiero, quando udì un urlo in lontananza. Vide il re delle formiche che camminava nella sua direzione. Perché gli umani con quelle loro bestie così goffe non possono fare molta attenzione? Quello stupido cavallo con i suoi pesanti zoccoli, se solo si spostasse solo un pochino più in là ci aiuterebbe. Ah, che bravo, ci ricorderemo di te. Una buona azione ne merita un'altra. La strada condusse il servo nella foresta più profonda, dove incontrò due vecchi corvi che insegnavano ai loro piccoli come badare a se stessi. I piccoli corvi cinguettavano impauriti, sbattevano disperatamente le ali per poter volare. Oh, siamo dei corvi indifesi! Dobbiamo badare a noi stessi! Ma noi non sappiamo volare! Cosa possiamo fare? Rischiamo di morire di fame! Il servo scese da cavallo e lo abbatté con la sua spada. Così i tre corvi salirono su di esso e iniziarono a mangiare. Poi guardarono il servo e lo ringraziarono. Ci ricorderemo di te! Una buona azione ne merita un'altra! Infine raggiunse una grande città, dove un messaggero del re fece un annuncio importante. La dolce figlia del re cerca un marito! Chi desidera la sua mano in sposa deve compiere una missione difficile! E se lui non ci riuscirà, perderà la sua misera vita! Il servo si diresse verso i giardini del palazzo. Lì vide la figlia del re e se ne innamorò. Si recò dal re e annunciò che desiderava sposare sua figlia. Il servo fu condotto su una barca e portato in mezzo al mare. Il re lo seguì su di una barca più grande, finché gettò il suo anello nell'acqua ed espose la sfida da affrontare. Se tu non mi riporterai il mio prezioso anello, tu sarai gettato di nuovo nell'immenso mare, finché tu non morirai tra le onde. Il servo, impaurito e indifeso, rimase impotente a osservare l'acqua. Quando i tre pesci giunsero in superficie e gli consegnarono una conchiglia, sorrisero e se ne andarono. Il servo aprì il guscio e con stupore vide l'anello. Lo consegnò felicemente al re. Tuttavia, la principessa si arrabbiò e chiese che venisse proposta un'altra missione, prima di accettare di sposare il servo. La principessa furiosa portò il servo in giardino e fece spargere 10 sacchi di chicchi di miglio dappertutto, fino a che giunse la notte. Domani mattina, prima dell'alba, questi chicchi devono essere raccolti e non un singolo granello deve rimanere a terra. Perso e senza speranza, il servo si arrese e si sedette tra i cespugli. Chiuse gli occhi e si addormentò finché non giunse il mattino. Aprì gli occhi e vide 10 sacchi pieni di miglio, con migliaia di formiche presenti guidate dal sorridente re formica. Vide arrivare la principessa, che rimase scioccata ma non soddisfatta. La principessa, tuttavia, non riuscì ancora a intenerire il suo cuore. C'è un'altra missione che devi compiere, in modo che io possa sposarti. Sì, mia signora, realizzerò ogni tuo desiderio. Se vuoi sposarmi, devi prendermi una mela d'oro dall'albero della vita. Il servo, sbalordito, lasciò il regno per partire alla ricerca della mela d'oro. Viaggiò per giorni senza meta, non sapeva dove si trovasse l'albero della vita. Si stancò, ruppe perfino le scarpe, così decise di riposare sotto un albero e si addormentò. Svegliatosi, vide i tre corvi seduti ai suoi piedi con una mela dorata posta sulla sua pancia. Siamo i tre giovani corvi che hai salvato dalla fame. Siamo cresciuti e abbiamo sentito che cercavi la mela d'oro. Abbiamo sorvolato il mare fino alla fine del mondo, dove si trova l'albero della vita, e ti abbiamo portato la mela. Siamo felici di rivederti. Il servo felice portò la mela alla principessa. Il cuore si sciolse nel vedere la mela d'oro. La tagliò in due e la mangiarono entrambi. Si sposarono e vissero felici e contenti.